Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. But I still believe in America, and I always will. And if you do, then we must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president. We owe him an open mind and the chance to lead. Così ha parlato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Hillary Clinton, la grande sconfitta di queste elezioni presidenziali. Oggi nel pomeriggio ha detto queste parole, fra le altre, dicendo: io continuo a credere nell'America, però ha vinto Donald Trump e quindi gli auguriamo, insomma, di governare al meglio. E Donald Trump, a sorpresa per qualcuno, meno per altri, io ieri sera avevo frenato molti ospiti che dicevano: ormai è fatta, ha vinto Hillary Clinton. Dicevo: no, non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Comunque, a sorpresa o meno, il 45esimo presidente degli Stati Uniti è Donald Trump, imprenditore, showman, che ha sbaragliato quindi politici di mestiere e ha convinto evidentemente gli americani. Ne parleremo lungamente qui a Effetto Notte, perché molti si interrogano in senso positivo, negativo, su questa vittoria, visto che comunque Hillary Clinton era vista da più parti, anche da vari leader del mondo, come la candidata ideale alla presidenza della Casa Bianca. Insomma, ne parleremo, così come affronteremo come sempre molti temi con Effetto Notte. Voi lo sapete che per i vostri le vostre osservazioni, le vostre riflessioni, potete sempre scrivere o alla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure c'è sempre il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349 238 6666. Lo ripeto, 349 238 6666. Ma ora, come sempre, un riassunto delle notizie principali. Il trionfo di Donald Trump: sarò al servizio di tutti, dice, dobbiamo superare le divisioni. Hillary Clinton, dopo la sconfitta, commenta: accetto il risultato e guardo al futuro, ma donne e bambine non perdano la speranza di vedere una donna presidente. Il mondo guarda la Casa Bianca, l'Unione Europea auspica che i legami restino forti, Angela Merkel assicura che il partenariato con gli Stati Uniti rimane la pietra angolare, Putin chiede di ricostruire i rapporti con l'America, il primo ministro israeliano Netanyahu dice Trump è amico di Israele. Borse e mercati finanziari non si spaventano dopo l'avvio di Wall Street, recuperano anche le borse europee. Terremoto, Renzi ribadisce, sarebbe ingiusto non togliere le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità. Centrodestra compatto sul no a carcere per i colletti bianchi, presentato al Senato un disegno di legge firmato da Forza Italia, ALA, APN, Nuovo Centrodestra e Conservatori Riformisti. Fabrizio Corona ha revocato l'affidamento ai servizi sociali all'ex agente dei paparazzi, un anno in più di carcere, i giudici parlano di ripetute azioni organizzate contro la legalità. La scomparsa di Umberto Veronesi, domani a Milano la camera ardente per il grande oncologo. Partiamo quindi dalla vittoria alle presidenziali americane di Donald Trump e dalla sconfitta di Hillary Clinton, che dice guardiamo al futuro, il sogno americano è per tutti e le donne non smettano di lottare. Il day after dell'elezione che ha scioccato il mondo ha un imperativo prima di tutto: riunificare un'America spaccata come mai prima. Questo è il messaggio mandato subito da Donald Trump nel discorso della vittoria. Questo è il messaggio che, pur nel dolore della sconfitta, invia al paese Hillary Clinton. Introdotto dalla colonna sonora del film Air Force One, il 45esimo presidente degli Stati Uniti si presenta ai sostenitori e al mondo con una promessa: sarò il presidente di tutti. I will be president for all Americans. Il magnate repubblicano, passato dalle risate della folla quando annunciò la sua candidatura all'ingresso domani nella Casa Bianca, deposta l'ascia dell'attacco, si presenta in una veste rassicurante e sprona l'America a ricompattarsi. It is time for us to come together as è giunto one il momento di superare le divisioni, people. Dobbiamo lavorare insieme e riunire la nostra grande nazione. È la sua prima dichiarazione di intenti dopo aver riconosciuto ad Hillary l'onore delle armi ed averla ringraziata per il suo lavoro da segretario di Stato. E di Hillary, dopo un prolungato silenzio, ammette la sconfitta e offre a Trump la sua collaborazione in nome del paese. Noi democratici continuiamo la nostra parte e questa, secondo Hillary, ora consiste nel difendere i valori della Costituzione e continuare a credere che il sogno americano è grande per tutti, uomini e donne, gay e disabili, elenca, provando a tenere insieme tutte quelle diversità razziali e sociali che hanno spaccato gli Stati Uniti in un'elezione che ha scioccato il mondo. Ma ora per l'America è il momento di fare tutto il tifo per Trump, secondo l'auspicio del presidente uscente, perché, come ha detto Barack Obama, noi siamo prima di tutto americani e vogliamo il bene del paese. Questo è quello che il paese richiede, unità inclusione, rispetto per le istituzioni, le leggi e per tutti. Così, già da domani, con il primo ingresso alla Casa Bianca di Donald Trump, dopo lo shock, l'America prova a riunificarsi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E parliamo delle reazioni nel mondo. Le relazioni internazionali sono uno dei principali punti interrogativi della prossima amministrazione americana. Angela Merkel, la cancelliera tedesca, assicura che il partenariato con gli Stati Uniti rimane la pietra angolare della politica estera tedesca. Matteo Renzi si è detto convinto che l'amicizia con l'Italia resterà forte e solida. Invece per il presidente Hollande, presidente francese, si apre una fase di incertezza. Dice: la Russia brinda alla vittoria del magnate e auspica il superamento della crisi nei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. E il primo ministro israeliano Netanyahu plaude all'amico di Israele. Congratulazioni dal presidente messicano, che ha evitato toni polemici nonostante la boutade da parte di Trump, più volte detta, del muro anti-migranti con il Messico. E la Turchia ha chiesto ora all'America di Donald Trump l'estradizione di Gulen, ritenuto la mente del fallito golpe. E sentiamo che cosa, come hanno reagito in Italia le forze politiche. Oltre al centrodestra, anche Beppe Grillo esulta per la vittoria di Trump. Una vittoria inaspettata che spacca la politica italiana, esulta il centrodestra e a sorpresa anche Beppe Grillo, per il quale Donald Trump è un vaffa pazzesco e ci sono similitudini tra questa storia americana e il Movimento 5 Stelle. Pazzesco, questa è la deflagrazione di un'epoca, è l'apocalisse dell'informazione, della televisione, dei grandi giornali, degli intellettuali, dei giornalisti. Per Maroni, Brunetta, Salvini, Toti, il trionfo del tycoon americano e la vittoria del popolo contro i poteri forti. Dal PD il premier Matteo Renzi, che tifava per Hillary Clinton, mostra rispetto per il voto, mentre la minoranza Dem avverte: occorre guardare a sinistra. Il presidente della Toscana, Enrico Rossi. Una sinistra debole, poco identitaria, viene identificata con il sistema, le persone cercano altre soluzioni. All'estero il presidente russo Vladimir Putin è pronto a ripristinare i rapporti con gli Stati Uniti, ma sarà un percorso difficile, e se la cancelliera tedesca Angela Merkel offre collaborazione al neopresidente, per il capo dell'Eliseo François Hollande la vittoria di Trump apre un periodo di incertezza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E tra poco, come vi ho detto, ritorneremo sul risultato delle presidenziali americane, ma come hanno reagito le borse? L'effetto Donald Trump non spaventa i mercati, recupera anche Piazza Affari. Come nel caso della Brexit, l'evento inatteso, quello che gli americani chiamano The Black Swan, il cigno nero, si è materializzato, ma non ha, almeno finora, effetti dirompenti. I mercati incassano il colpo e Wall Street gira in positivo, uno scenario quasi inimmaginabile alla vigilia. A influenzare gli investitori i toni accomodanti usati da Trump nel suo primo discorso, ben diversi dall'esasperata campagna elettorale, la prospettiva che la Fed a questo punto non alzi i tassi a dicembre e le promesse del tycoon su futuri investimenti e tagli delle tasse, con l'esclusione del muro sul Messico. Il suo, infatti, dicono gli operatori, è un programma espansivo per gli States, e così i settori costruzioni, difesa, biotech volano sull'azionario. Siamo pronti a gestire la volatilità dei mercati, hanno rassicurato prima dell'apertura i gestori delle principali borse americane. Le incertezze però restano, a partire dalla possibile chiusura commerciale del paese. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Dopo una giornata nervosa, rimontano le borse europee. Nonostante l'apertura in rosso, alla fine non spaventa l'effetto Donald Trump. Il calo dei mercati dopo l'elezione del magnate alla presidenza degli Stati Uniti è svanito nel corso della seduta e i mercati europei hanno recuperato via via terreno, fino a mettere a segno consistenti rialzi. Hanno infatti invertito direzione Londra, chiudendo con un guadagno di un punto percentuale, ma anche Parigi e Francoforte, con guadagni intorno al 1.5%. Milano ha recuperato in finale di seduta dopo essere stata la peggiore, chiudendo con una perdita modesta del FTSE MIB dello 0,10%, poco sotto la parità. Gli investitori hanno premiato i titoli dei settori che, in base alle previsioni, trarranno maggior beneficio dalla vittoria di Trump, a partire da quelli della difesa, delle costruzioni e del settore farmaceutico. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Parliamo di terremoto, perché oggi il presidente del Consiglio Renzi, in un'informativa alla Camera sul sisma, ha detto: bisogna ricostruire presto e bene a partire dalle scuole. Ribadisce: sarebbe ingiusto non togliere le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità. Tutto il territorio nazionale ha la necessità di mettere in sicurezza il proprio patrimonio scolastico. Noi riteniamo che non considerare evento eccezionale, il sisma nella sua complessità, sarebbe un atto profondamente ingiusto, al punto di definirlo illegittimo rispetto alle regole attualmente vigenti. Dunque, tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica va fuori dal patto di stabilità. Poi sentiremo altri passaggi di questa informativa. Passiamo alla politica. L'intero centrodestra, anche quello confluito nella maggioranza, si ricompatta su un disegno di legge che esclude il carcere per i colletti bianchi, per i corrotti. Il DDL presentato oggi al Senato da Ciro Falanga, firmato da 23 senatori di Forza Italia, di Conservatori Riformisti, di Nuovo Centrodestra e ALA, riscrive l'ultima parte della norma sulla custodia cautelare, eliminando tra l'altro il carcere per il finanziamento illecito dei partiti e per quei reati anche gravi per i quali non c'è stato uso di armi o violenza. E tocca parlare di nuovo dell'incidente in Spagna, vi ricordate, in cui morirono 13 studentesse? Perché? Perché il giudice istruttore del tribunale di Amposta, vicino a Tarragona, in Spagna, ha deciso di archiviare la causa penale aperta dopo l'incidente del bus Erasmus, costato la vita in marzo a 13 studentesse, fra cui 7 italiane, in Catalogna. Nella decisione di archiviazione, contro la quale può essere presentato ricorso, il magistrato ha escluso che l'incidente sia stato dovuto a problemi meccanici o alla guida imprudente dell'autista e ha rinviato le parti al procedimento civile. Siamo stupefatti e nuovamente sotto shock, ha detto Alessandro Saracino, padre di Serena, una delle studentesse morta nell'incidente. Ci riserviamo di procedere legalmente in tutte le sedi competenti e chiederemo all'Unione Europea di prendere posizione sulla vicenda. Tra l'altro, il conducente del bus, denunciato per 13 omicidi per imprudenza in un primo tempo, secondo la stampa spagnola, avrebbe confessato ai soccorritori dopo lo schianto: mi sono addormentato. Non so se vi ricordate. Ora di nuovo in Italia. Con la cronaca, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali a Fabrizio Corona, affidamento che era stato sospeso il 10 ottobre scorso, il giorno stesso in cui è stato arrestato per intestazione fittizia di beni. I giudici hanno disposto la revoca, ciò cosa vuol dire? Che in sostanza che un anno circa già scontato in affidamento ai servizi sociali dovrà essere nuovamente scontato in carcere. E siamo alla scomparsa di Umberto Veronesi, sarà allestita in Sala Alessi a Palazzo Marino a Milano la Camera Ardente di Veronesi. Domani a partire dalle 11 e fino alle 22:30 si potrà portare l'ultimo saluto al grande oncologo scomparso ieri all'età di 90 anni. La Camera Ardente riaprirà venerdì mattina fino alle 11, quando il Comune di Milano si terrà la commemorazione civile per rendere omaggio alla sua figura di vero laico, come ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Per chiudere questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, per dirvi, la California ha detto no alla proposta di rendere obbligatorio l'uso del profilattico nei film hard girati nello stato della California. Quando lo spoglio delle schede è arrivato al 96% dei voti, i no sono il 53,9% contro il 46,% di sì. La proposta è stata votata, pensate, insieme alle presidenziali ed era stata avanzata dalla Fondazione contro l'AIDS. L'industria del porno temeva, rendendo obbligatorio il profilattico, i contraccolpi sul settore e una fuga del set, dei vari set pornografici dallo Stato. Questa, anche questa, è America. Poi torneremo a parlarne, non di questo, ma insomma degli Stati Uniti. Voi continuate con i vostri messaggi, le vostre osservazioni in pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure i messaggi al 349-238-6666. Per esempio, Fabio dice: Roberta, te l'ho detto che i giudizi dei sondaggi dopo ogni confronto televisivo tra Clinton e Trump erano truccati per orientare il voto, ma tu sei un po' ingenuo e ci credevi. No, non ci credevo affatto. Io ieri continuavo, se avete seguito la diretta non stop, a dire ai vari ospiti: no, non diciamo che ha vinto Hillary Clinton, che ormai è fatta, perché in qualsiasi momento può arrivare la smentita. Poi, in qualsiasi momento, nel senso, alla fine, naturalmente, delle votazioni, l'ho detto più volte. Francesco da Piacenza dice: adesso anche gli americani hanno il loro Berlusconi, hanno davanti 4 anni di grasse risate, dice, e qualche figuraccia. Questa l'opinione di Francesco, mentre Antonio dice: io sono sempre meno convinto che il suffragio universale sia il modo migliore per eleggere qualcuno, non che io mi ritenga superiore, semplicemente ritengo giusto che mi si impedisca di fare danni se voto qualcuno solo perché mi piace la sua vita o perché odio l'uno o l'altra. Però questa, Antonio, è la democrazia. Tra pochissimo. Stufe, caldaie, termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Le notizie più importanti ve lo raccontate come sempre Roberto Giordano con voi in questo primo riassunto della giornata, e poi adesso cominciamo dopo la viabilità a affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti. Ritorneremo tra pochissimo sull'esito delle presidenziali americane. Intanto continuano ad arrivare i vostri messaggi, i vostri commenti sulla vittoria di Trump. Dice Alex, perché no, questo è sul... Sarebbe, Alex, rispetto a quella notizia della California che ha deciso con una votazione anche importante e impegnativa di non rendere obbligatorio il profilattico in California, e dicevo anche questa è America, Alex dice, perché dovrebbero fuggire dal set in caso di obbligo del profilattico? Non sarebbero tutti più garantiti? Evidentemente preferiscono così, caro Alex. Poi Francesco dice che i politici non dicano ci saremo eccetera, noi al centro abbiamo ancora... No, questo è su tutt'altro argomento. Poi Giovanni da Padova, nel corso della campagna elettiva si è cercato di associare Trump alla parola magnate nel senso peggiore del termine, non vi è dubbio che poveretto non è, ma ha speso meno soldi dei quattrinati Clinton e clintoniani che hanno messo in moto una costosissima, mostruosa macchina del fango. Oddio, quanto fango, mi pare che ne sia scherzato da tutte le parti. Comunque, tra poco torniamo a parlarne. Vi ricordo, se avete acceso puntualmente la radio alle 21 su Effetto Notte, quali sono le notizie più importanti. Trionfo a sorpresa per Trump, dice sarò il presidente di tutti, Hillary sconfitta, dice è doloroso ma le donne non smettano di lottare. Il mondo guarda la Casa Bianca, l'Unione Europea dice i legami restino forti, Putin chiede di ricostruire i rapporti con gli Stati Uniti e il primo ministro Netanyahu dice Trump è un amico di Israele. Shock dei mercati in avvio, poi recuperano e chiudono in positivo, Milano limita le perdite. Grillo, per quanto riguarda le reazioni italiane, festeggia il neopresidente, dice è stato un vaffa pazzesco, Salvini e i trumpisti italiani applaudono e dicono vittoria del popolo. L'Unione Europea rivede a ribasso le stime di crescita dell'Italia e poi Renzi dice a proposito del terremoto e delle scuole, illegittimo non scorporare l'edilizia scolastica dal patto di stabilità. I 5 Stelle protestano in questa informativa che Renzi ha fatto alla Camera e dicono il Premier dica come stanno le cose. Centrodestra compatto sul no al carcere per i colletti bianchi, è stato presentato al Senato il disegno di legge e poi è revocato l'affidamento a Corona, un anno in più di carcere, i giudici dicono ha fatto ripetute azioni organizzate contro la legalità. Now it's time for America to bind the wounds of division. Have to get together. To all Republicans and Democrats and independents across this nation, I say it is time for us to come together as one united people. I pledge to every citizen of our land that I will be president for all Americans. And this is so important to me. Questa è la dichiarazione di Trump che ha detto voglio essere presidente di tutti i cittadini americani, è ora di non dividersi più, insomma di unirsi per il futuro dell'America. Così Donald Trump, il miliardario imprenditore showman, è il 45esimo presidente americano dopo aver sbaragliato appunto i politici di mestiere, riuscendo a convincere gli americani che era il presidente ideale. Del resto non bisogna sorprendersi di una campagna elettorale che è stata molto combattuta e anche piuttosto bizzarra, no? Molti non ricordano da memoria di persona una campagna di questo tipo, piena di colpi di scena, di insulti, di veleni, di cose impreviste, e quindi non poteva finire che con un'elezione a sorpresa, io ripeto a sorpresa per alcuni, non per tutti. Tutto quello che... potevano sbagliare i sondaggisti hanno sbagliato, questo va detto. La reazione in America, così come nel resto del mondo, è stata in parte di incredulità, in parte di naturalmente di felicità o di shock. Ci si è complimentato, cioè chi si è interrogato si continua anche a interrogare su questo risultato. Quindi Trump ha trionfato, Hillary probabilmente colpita dalla sconfitta ha parlato solo nel tardo pomeriggio, ha detto naturalmente accetto la vittoria di Trump, gli auguro successo e dice però voglio anche che bambine e donne non si scoraggino e pensino che prima o poi una donna presidente ci sarà. Obama si è detto profondamente orgoglioso di Hillary, ha detto non poteva essere un migliore segretario di Stato perché è stata sua ministra degli esteri. Ne parliamo con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore da New York, che anche ieri ci ha accompagnato durante la nostra non stop. Caro Marco, buonasera. Buonasera a voi. E buongiorno a te, direi. Grazie. Marco, allora... che come si è risvegliato, come si sono risvegliati gli Stati Uniti e che cosa dicono anche gli osservatori, analisti e politologi americani, no? Che adesso hanno cominciato tanti che avevano dato per scontata la vittoria di Hillary Clinton, invece si sono svegliati con un altro risultato. Sì, diciamo che anche gli Stati Uniti si sono svegliati un po' in un clima di shock e di sorpresa quasi generale, diciamo, indipendentemente quasi da chi fosse a favore dell'uno o dell'altra. Era, alla fine sembrava un risultato abbastanza piuttosto imprevedibile, parso per tutti. Chiaramente con anche emozioni forti, sentendo questa mattina, seguendo trasmissioni radiofoniche in diretta, tanto per rimanere nel nostro ambito, alla radio pubblica americana, c'erano ascoltatori che chiamavano quasi in lacrime, diciamo, no? Per lo shock, per la sorpresa. Sicuramente, vuol dire che comunque li aveva appassionati, questo per certi versi comunque una corsa, no? Estremamente intensa, nel bene e nel male, diciamo, come ricordavi tu, ha avuto delle passioni, ha acceso delle passioni molto forti e ha anche toccato dei bassi, diciamo così, dei bassi fondi piuttosto fondi. Senti, adesso a parte i media americani che per lo più man mano uno dopo l'altro avevano fatto endorsement, come si dice, avevano appoggiato, si erano espressi palesemente per Hillary Clinton, a parte quelli, per esempio oggi il giornale britannico Guardian nel suo editoriale online dopo la vittoria di Trump dice, il giornale liberal, l'elezione del tycoon ha risvolti dirompenti non solo per l'America ma sulla stabilità mondiale, no? Molti... Sì, forse siamo ancora un po', esatto, un po' presto per dirlo, e bisognerebbe forse essere un po' più prudenti, evitare le esagerazioni. Ecco, forse se c'è un messaggio che viene anche da quanto ha detto Obama, sia nella notte dicendo guardate che il sole sorgerà ancora domattina, e anche poi oggi, diciamo, in modo più sobrio, ricordando che ci sono dei meccanismi comprovati e molto efficaci di trasferimento pacifico del potere negli Stati Uniti, per cui da oggi Donald Trump e il suo team, che verrà messo a fuoco, cominceranno a ricevere tutti i briefing di intelligence e tutti i briefing più delicati per la gestione, diciamo, poi del governo nell'anno nuovo, quindi un periodo di mesi di lavoro molto intenso in realtà dietro le quinte, ma estremamente intenso, probabilmente più intenso addirittura che durante la campagna elettorale, se si vuole. Obama ha ricordato che le istituzioni e del paese sono più grandi di lui, più grandi di chiunque occupi in quel momento la Casa Bianca. Ecco, forse, diciamo, è un po' presto per diciamo gridare allo squilibrio, alle catastrofi, diciamo, alle rivoluzioni, diciamo, globali. Un Marco. Messaggio sicuramente molto forte, quello inviato alla vittoria di Trump. Non è detto che necessariamente che provochi dei terremoti. Ecco. Marco, ti volevo chiedere anche questa cosa. Siccome Trump fa le varie cose che aveva annunciato, era anche abolire l'aborto, ritornare indietro sui matrimoni omosessuali, eccetera, tanto da far dire oggi al segretario generale di Amnesty International, Salil Shetty, dice: durante la sua campagna elettorale il presidente eletto Trump ha più volte procurato grave costernazione, ha fatto maturare seri dubbi sulla forza dell'impegno verso i diritti umani che potremo aspettarci negli Stati Uniti nel futuro. Ora deve lasciare tutto questo alle spalle e riaffermare e rispettare gli obblighi degli Stati Uniti sui diritti umani sia all'interno del paese che all'estero. È un timore questo concreto per il momento, certo, diciamo. Ma sicuramente c'è un dibattito annunci. A questo punto che si apre molto molto intenso. Cosa farà davvero Trump, proprio perché l'elezione è stata così insolita, il personaggio è così imprevedibile, diciamo, forse. Imprevedibile, e la situazione è così fluida che diciamo apre automaticamente degli interrogativi. Quello che però forse è prematuro è tra le troppe conclusioni. Ecco, se c'è un elemento costante forse nella carriera di Trump è che non è esattamente un ideologo, non ha mai dimostrato una particolare coerenza ideologica, diciamo, cioè, vuol dire un camaleonte. Diciamo che ha una tendenza alla fine alla gestione del potere, a un pragmatismo per quanto nel suo stile flamboyant, che qualcuno potrebbe anche immaginare a questo punto lo porti, ok, ho vinto e ho usato tutto quello che dovevo usare e dire per vincere, non è detto che per governare o almeno questo è l'augurio che si fanno, diciamo, in molti i politologi, mentre per governare servono le stesse affermazioni e gli stessi strumenti. Quindi diciamo che in realtà poi nel prosieguo ci siano margini di compromesso, margini di lavoro comune, proprio basandosi sul fatto che lui non è esattamente, diciamo, le sue così come si presenta, dice. Sui gay, sono, diciamo, cambiate più volte nel corso degli anni, e sicuramente non è lì che risiede la sua passione, non è certo sui valori, diciamo così, morali e ideologiche che risiede la sua passione, semmai è stata quella di mettersi a capo di un movimento così populista, popolare, che con cui lui, paladino improbabile, ha dato voce a un forte disagio che è stato sottovalutato e dai sondaggisti e dai politici di professione, che poi ha portato a questo risultato. Marco, abbiamo ancora un minuto, ma proprio per essere molto sintetici, adesso dovrà preparare la squadra, no? Perché il 20 gennaio dovrà fare il giuramento Trump. Tra i nomi si fa quello di Giuliani, ex sindaco di New York, che ebbe successo come sindaco di New York e che l'ha sempre sostenuto, no? Certo. Adesso questa una delle prime dei primi testi, in effetti, della sua della sua strategia futura sarà proprio una prime prove vere, sarà proprio la messa a punto della squadra, e lì potremo forse giudicare meglio quanto gli equilibri saranno pragmatici quanto ideologici. Ecco, i personaggi che lo hanno sostenuto e che sicuramente possono battere cassa a questo punto per avere posizioni importanti sicuramente sono personaggi come Rudolph Giuliani, come Chris Christie, il governatore del New Jersey. Ecco, c'è da dire che entrambi sono personaggi piuttosto controversi e non esattamente, diciamo, tra il meglio che può offrire l'America di questi giorni, in tutti e due i sensi. Chris Christie quasi travolto da scandali da bullo politico di periferia, che chiudeva i ponti per penalizzare il sindaco locale che non gli era amico, e Rudolph Giuliani che, diciamo, ok, è stato il sindaco d'America nel periodo dell'11 settembre 2001, da allora è passata molta acqua sotto i ponti e devo dire acqua che l'ha, diciamo, sommerso in modo piuttosto pesante e squalificante, a essere sinceri. Quindi è possibile che ottengano delle posizioni, vedere se otterranno delle posizioni davvero di grande peso politico come ministro della giustizia piuttosto che altro forse sarà un test importante per capire quale direzione vuol prendere. Grazie Marco Valsani da New York, e ringrazio anche gli ascoltatori. Questo ascoltatore dice: grazie a Radio 24 della splendida notte elettorale di ieri, grazie a voi che avete avuto pazienza e resistenza di sentire così a lungo. La vittoria del popolo contro i poteri forti, i banchieri, i finanzieri, i lobbisti, negli Stati Uniti come in Italia, tutti col potente di turno tranne i cittadini. E quindi per noi è un'ottima risposta, perché Trump significa controllo dell'immigrazione, significa smetterla con le guerre fatte a caso in giro per il mondo, significa difendere il Made in USA, quindi anche il Made in Italy, smetterla con i trattati commerciali che avvantaggiano le multinazionali, tornare ad avere buoni rapporti con la Russia e con Putin. Una flat tax al 15% per le imprese americane. Quindi sostanzialmente il programma della Lega applicato alla più grande democrazia del mondo. Entusiasta Salvini, quindi il leader della Lega che l'ha sempre sostenuto. Però chiedo a Francesco Costa, che è vice direttore del Post, il giornale online da mesi, scrive una newsletter sulle elezioni americane. Buonasera Francesco. Buonasera. E dice Salvini, come dicono altri, ha vinto il popolo, lui è vicino al popolo, contro i poteri forti, contro le banche. Però io ti faccio questa domanda, Francesco Costa, e come fa a essere considerato uno del popolo, uno vicino al popolo e per il popolo, uno comunque che è un mega miliardario, senza che questa sia una colpa, comunque anche un grande evasore fiscale, e che comunque ha un forte legame con la lobby delle armi, che è una delle lobby più forti del mondo? Quindi se parliamo di poteri forti non possiamo dire che è fuori e lontano dalla casta, dall'establishment e dai poteri forti. Che cosa pensi? No, ma sono d'accordo, Salvini naturalmente legittimamente porta avanti la sua battaglia politica, e la sua è più appunto una posizione politica che un'analisi. Le cose mi rendo conto che siano più complicate di così, però ecco, c'è un dato che magari può essere utile come contesto della discussione. Alla fine della fiera Hillary Clinton ha ottenuto più voti di Donald Trump, la persona che hanno votato in maggioranza gli americani è stata Hillary Clinton nel voto popolare. È quello che scrive Letizia, un'ascoltatrice, infatti dice: non dimentichiamoci che Clinton ha preso in assoluto più voti di Trump, quindi un paese così spaccato difficilmente potrà essere riunito. Sì, sì, sì. Poi il sistema elettorale americano prevede che si voti stato per stato, la vittoria di Trump è legittima, è piena, nessuno lo mette in discussione, però ecco, non è una partita di calcio in cui c'è qualcuno che vince e qualcuno che perde. È una storia più complicata da leggere, è difficile dire cosa ha scelto l'America, e se proprio vogliamo appiccicarci ai voti, diciamo, Clinton ne ha presi di più. Allo stesso modo, come ricordava lei giustamente, Trump è a tutti gli effetti un membro dell'establishment americano, è un milionario di New York che dorme in palazzi che portano il suo nome e viaggia da quando è nato su aerei privati, ecco, non è esattamente qualcuno vicino al popolo. È vero che le cose che ha detto hanno svegliato e hanno ottenuto attenzione, consenso, hanno creato entusiasmo in un certo pezzo d'America. Anche lì, definirlo popolo è una discussione interessante, ma per esempio tra i ceti sociali che guadagnano meno in America, tra i redditi più bassi, ha vinto Hillary Clinton, Trump ha avuto molti voti da chi guadagna $50,000 l'anno in su, nella fascia inferiore invece ha vinto Clinton. Trump ha vinto tra gli anziani e non tra i giovani, Trump ha vinto nelle province e non nelle città, insomma ci sono tutta una serie di dati che poi non sono così assurdi e che sono familiari a noi, sono vicini a quello che per esempio è successo nel Regno Unito nel caso del referendum sull'uscita dall'Unione Europea, però ecco, eviterei semplificazioni troppo radicali tipo ha vinto il popolo, mi sembra che non ci aiutino a capire davvero quello che è successo. Molto interessante questa analisi, Costa. Un'ultima cosa, è possibile che a volte, spesso anche tra persone comuni, la volgarità o certi modi di parlare, diciamo senza peli sulla lingua, la schiettezza siano vissuti come trasparenza, come sincerità e quindi come un valore? Sì, questa almeno è una delle letture che vengono fuori da questo voto. Io negli Stati Uniti ho avuto poi l'opportunità di parlare con molti elettori di Trump, scoprendo che non sono tutti delle macchiette, naturalmente, il classico americano con il cappello, la pancia e la pistola in tasca, ma molti lo hanno votato perfettamente consapevoli anche dell'assurdità della sua candidatura e delle cose che dice, ma proprio perché questo suo essere evidentemente improbabile e questo suo non volersi sforzare di piacere agli americani era considerato un segno di autenticità, un segno di insomma, qualcuno di cui ci possiamo fidare, esatto, invece che i politici troppo calcolati e pianificati. Quindi sicuramente certe cose che sono state viste come degli errori, che fin qui nella politica americana erano sempre poi stati effettivamente degli errori, nel caso di Trump possono invece avergli dato una mano e aver costruito questa immagine di candidato affidabile, sincero, diverso dagli altri. Chiarissimo, grazie Francesco Costa, vice direttore, ricordo, del Post, grazie. Grazie, grazie Costa, buonasera. Grazie, buon lavoro. Direi che ci dobbiamo brevemente lasciare per la pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo. Tecnologie e logistiche di magazzino Modul Block, avanti anni luce. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, siete al posto giusto, nel momento giusto e con la giusta conduttrice, anche con voi Roberta Giordano. Continuiamo allora con l'approfondire i temi e restiamo ancora sulle elezioni negli Stati Uniti. Ci torneremo tra pochissimo. Intanto i vostri messaggi, Stefano, sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, dice: Trump non è uno sprovveduto, aspetterei a definirlo un male, bisogna invece stare attenti al suo vice Pence, che è un politico e potrebbe influire parecchio. Ma vi ricordo velocemente le notizie più importanti: il trionfo di Donald Trump, appunto, nelle presidenziali, sarò servizio di tutti, dice, dobbiamo superare le divisioni, e Hillary dice: dopo la sconfitta accetto il risultato e guardo al futuro, ma donne e bambine non perdano la speranza di vedere una donna presidente. Le borse, i mercati finanziari non si spaventano, dopo l'avvio di Wall Street recuperano anche le borse europee. Terremoto, Renzi ribadisce, sarebbe ingiusto non togliere le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità. And to all the women, and especially the young women, who put their faith in this campaign and in me, I want you to know that nothing has made me prouder than to be your champion. I know we have still not shattered that highest and hardest glass ceiling, but someday someone will, and hopefully sooner than we might think right now. Molto emozionata Hillary Clinton, che ha detto: abbiamo bisogno che voi continuate a lottare, a tutte le donne, soprattutto a quelle più giovani, vorrei dire che nulla mi ha reso più orgogliosa di essere la vostra candidata. Non possiamo ancora sfondare quel soffitto di cristallo, ma un giorno qualcuno lo farà, spero il prima possibile. Il soffitto di cristallo simbolico che impedisce alle donne di arrivare a certi ruoli. Ne vorrei parlare con Maria Latella, che è giornalista, conduttrice televisiva ogni domenica e in TV su Sky TG24 con l'intervista, mentre su Radio 24 qui conduce la domenica alle 10 Nessuna è perfetta. Maria, ciao, quindi neanche Hillary, seppur ha preso la gran parte dei voti popolari, era perfetta come candidata? Evidentemente no, e certo c'è un po' di rammarico, io credo, in molte delle donne anche fuori dagli Stati Uniti, perché sembrava proprio lì lì per essere spezzato, incrinato quel soffitto di cristallo, e invece non è andata così. Perché, come diciamo spesso e come ripetiamo spessissimo la domenica mattina, nessuna è perfetta, le nostre imperfezioni significa che non sempre siamo le persone giuste per quel ruolo. Hillary sembrava tagliata per fare la presidente degli Stati Uniti e probabilmente l'avrebbe fatto assai bene, ma conta la storia di ciascuno di noi alla fine. Secondo te ha contato anche il fatto di essere donna, che a volte qualcuno dice pur di non votare una donna voto un ramarro? Possibile? Io penso che gli americani abbiano votato guardandosi nel portafoglio, nello squallore di certe case e dentro se stessi, nella paura che hanno del domani. E ti dico la verità, io non credo che c'entri l'essere uomo, l'essere donna, c'entra il fatto di sentire davvero di poter contare su quel commander in chief, ma se la storia di quella commander, il potenziale commander in chief è una storia che tu dalla tua cucina dell'Ohio vedi come la storia di una che sta con i banchieri di Wall Street, cioè con quelli che tu pensi si siano, e pensi giusto, si siano straordinariamente arricchiti mentre la globalizzazione trasferiva l'azienda per la quale lavoravi in Messico o in Cina, allora è difficile che nonostante tutte le iniezioni di argomenti portati da Bernie Sanders nel programma di Hillary, è difficile come dire, scalfire la diffidenza. Maria, poi certo, Trump è un miliardario, voglio vedere. Legato alle lobby come quelle delle armi, per cui vogliamo vedere quanto riesce a sollevare. Quanto accoglierà, accoglierà le paure e le speranze delle persone, degli americani svantaggiati più che disagiati hanno votato lui. Maria, abbiamo proprio ancora pochi secondi solo per rispondere a questo ascoltatore Franco, che dice: su col morale, fra 4 anni spero il prima possibile avremo la donna che più merita di essere la prima presidente degli Stati Uniti, Michelle Obama. Dimmi sì o no. Sembra dunque, nei 2 mesi che ho passato a Chicago, che come sapete è la città di Michelle, persone che la conoscono, amici, mi hanno detto che no, che lei non ci pensa nemmeno a entrare però in politica. Però neanche Hillary ci pensava e abbiamo visto come è andato. Non voglio mettere la mano sul fuoco di niente, però sarebbe sicuramente una politica di straordinario carisma. Siamo d'accordo. Empatica da morire. Grazie Maria Latella. Domenica allora, con Nessuna è perfetta, alle 10. Grazie, ciao Maria. Grazie a te. Ciao, viabilità. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E riecco le notizie più importanti. Trionfo a sorpresa per Trump, sarò il presidente di tutti, dice Hillary, per lei è una sconfitta dolorosa, dice però le donne non smettano di lottare. Poi il mondo che guarda la Casa Bianca, l'Unione Europea chiede che i legami restino forti, Putin ricostruire i rapporti con l'America. E poi per quanto riguarda le borse, i mercati finanziari non si sono spaventati, dopo l'avvio di Wall Street recuperano anche le borse europee. Terremoto, Renzi ribadisce, sarebbe ingiusto non togliere le spese per l'edilizia scolastica dal patto di stabilità. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati agli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi parliamo di isole. Sicilia e Sardegna hanno da poco ottenuto il riconoscimento della condizione di insularità. Ora la Commissione europea sta vagliando la possibilità di destinare alle isole più risorse. L'Europarlamento ha votato una risoluzione che dà il via libera al superamento degli ostacoli normativi posti dal regime di libera concorrenza rispetto al principio della continuità territoriale. Il sistema dei trasporti di Sicilia e Sardegna, ad esempio, potrà finalmente godere dei benefici economici necessari per colmare il gap geografico, senza incorrere nei divieti dell'Unione Europea. Ne parliamo con l'europarlamentare Salvatore Cicu. Essere isola è più uno svantaggio che un vantaggio su diversi fronti. Quale? Ma sicuramente c'è una disparità di ordine economico, sociale, ambientale e rispetto anche ad uno sviluppo che sia policentrico. Sono sicuramente elementi che attengono poi ad una crisi economica che ha drammatiche ripercussioni sui bilanci in maniera particolare delle isole, quindi limitata disponibilità di finanziamenti in molti settori e che determina anche un crollo degli investimenti sia in quei settori storici come l'agricoltura, come il turismo, come il settore energetico che spesso manca. Cosa avete chiesto per le isole nella vostra risoluzione? Bisogna contribuire ad una compensazione che deve derivare appunto innanzitutto da un riconoscimento che siamo riusciti ad ottenere utilizzando l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e che attraverso una valutazione d'insieme, quindi della dimensione delle isole europee, siamo riusciti a stragrande maggioranza a far approvare una risoluzione che appunto pone finalmente il problema al governo dell'Europa, alla Commissione europea, che deve valutare tutte le fattispecie che servono a migliorare quei settori che vengono, come dire, penalizzati dall'essere isola, a cominciare quello dei trasporti. Ecco, quali saranno i tempi di risposta da parte della Commissione? Ma occorre un lavoro di pressione forte, occorre un lavoro di unione, di unità e soprattutto di idee precise, perché sino ad oggi le isole sono inserite in un contesto che vede altri territori svantaggiati, cioè non solo quelle ultraperiferiche, ma i territori costieri, i territori montani. Noi e io per primo in assoluto ho chiesto invece che ci fosse una specificità di riconoscimento, quindi occorre che la Commissione innanzitutto costituisca un dipartimento, in questo senso ho avuto rassicurazioni dalla commissaria Cretu, che ho incontrato proprio per sottolineare e valorizzare questo passaggio, di un dipartimento che si possa occupare solo ed esclusivamente delle isole. U-Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Abbiamo aperto un ragionamento con gli amministratori locali per individuare già nella prima fase di emergenza soluzioni alloggiative di prossimità che sono però provvisorie e precedenti l'arrivo delle casette di legno con le quali dovremo probabilmente affrontare l'intera fase della ricostruzione. Sotto questo profilo l'arrivo dei moduli abitativi, dei cosiddetti container, è fondamentalmente una scelta che rimettiamo alla decisione delle amministrazioni locali, con le quali il rapporto è costante e ovviamente complicato. Questo è il Presidente del Consiglio Renzi che oggi in un'informativa alla Camera sul terremoto ha parlato della situazione in quelle zone, di quello che intende fare il governo, che sta facendo, e anche caro Vincenzo Miglietta, il nostro Vincenzo Miglietta da Roma, che ci può dire più nel dettaglio di cosa ha parlato, anche di questa necessità di scomputare le spese della scuola, no? dal patto di stabilità europeo. Ciao Vincenzo. È assolutamente così, buonasera ai nostri ascoltatori. Renzi ha ricordato innanzitutto qual è stato l'impatto della macchina dei soccorsi per il terremoto, quindi 30.000 le persone assistite, almeno 30.000, 6.500 gli operatori che sono intervenuti nel centro Italia. E poi per quanto riguarda le spese per l'edilizia scolastica, punto principale nelle priorità secondo il Presidente del Consiglio Renzi, ha detto sarebbe sarebbe profondamente ingiusto e illegittimo se queste spese non fossero scorporate dal patto di stabilità. E questo il Renzi nella sua relazione in Parlamento. Roberta, poi sì, in questo momento il Presidente del Consiglio sta facendo... Matteo risponde, no? Matteo classico risponde, appuntamento. In diretta Facebook e Twitter, e logicamente le prime domande sono state sulla presidenza Trump, su quella che sarà la presidenza Trump e soprattutto i rapporti che vi saranno tra Italia e gli Stati Uniti guidati da Donald Trump. Renzi ha detto sicuramente Trump sarà ben diverso da presidente da quello che è stato come candidato, e comunque c'è una profonda amicizia tra Italia e Stati Uniti, e quindi guardiamo al futuro, questa amicizia non cambierà. E poi adesso sta parlando di legge elettorale e inevitabilmente del referendum. Grazie Vincenzo Miglietta da Roma, ciao Vincenzo. Grazie. E allora ancora un poco spazio ai vostri messaggi, perché poi dobbiamo lasciarci. Claudio dice: l'americano medio vede Trump con un aereo privato e palazzi e lo ammira e pensa che anche lui potrebbe farcela, non lo invidia rosicando pensando che è un mezzo ladro, evasore, sfruttatore come qui in Italia, dice Claudio. Mentre Antonio scrive sulla pagina Facebook di Effetto Notte: non sempre cambiare equivale a migliorare, ma per migliorare bisogna cambiare. Churchill docet, quindi una citazione di Churchill. Raffaele scrive: forse è solamente democrazia. E poi Enzo che chiede: cara Roberta, ma come hanno votato le donne americane? Ci diceva prima l'ospite che le donne più giovani e laureate hanno votato a favore di Hillary Clinton, meno le donne più adulte e non laureate. Questo lo vedete anche dalle statistiche che si trovano anche sui vari siti. Bene, a questo punto dobbiamo proprio salutarci, poi ritorno ad aggiornarvi brevemente alle 22:00.